in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che, ahimè, quasi mi viene da aggiungere, sono oggi tutti dedicati, almeno nel titolo scelto per la prima pagina, alla strisciante, chiamiamola così, crisi di governo e a tutti i retroscena di questi giorni, appunto, relativi al Premier Conte e all'opposizione, possiamo dire, interna, soprattutto di Italia Viva. Lodevole eccezione il Sole 24 Ore, che invece apre su un'inchiesta di tre dei nostri giornalisti, Marco Morino, Giorgio Santilli e Maurizio Caprino, sulle infrastrutture, porti e ponti, reti al collasso, e in 10 città c'è la sfida della TAV, che sapete non arriva dappertutto, l'alta velocità. E poi, richiamata in prima pagina, un'intervista al ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, un'intervista di Carmine Fotina che poi trovate a pagina 3, il titolo: ecco come spenderò 21 miliardi in 3 anni per rilanciare il Sud. E poi invece la foto di copertina richiama un'inchiesta di Alberto Magnani, un approfondimento di Alberto Magnani, consumi e PIL, così riparte l'altra Africa. Tutte le economie di questo grande continente, che in realtà ha anche il record di paesi, di stati, 54 in tutto, quindi con tante differenze al suo interno, le economie che crescono dal Senegal al Kenya. Il Corriere della Sera, alta Renzi, Conte va al colle, come vi dicevo, da pagina 2 a pagina 7, il retroscena su questa crisi di governo che non arriva in realtà mai. E quindi vi segnalo, più che queste 7 pagine, l'intervento di Lucrezia Reichlin, retorica perdente sul clima, quindi un approfondimento dal punto di vista economico su tutto quello che si dice in questi mesi sulle svolte green dei vari paesi. La Repubblica, invece, qui l'intervista è dedicata, poi ci sono tutti gli approfondimenti su quello che sta succedendo nel governo, con, appunto, pare, perché non è neanche stato tutto confermato ufficialmente, un colloquio del Premier Conte con il capo dello Stato Mattarella. Ma l'apertura di Repubblica è la prima intervista alla Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia. Il titolo dell'intervista: serve una giustizia dal volto umano. I processi troppo lunghi diventano una pena anticipata, la tutela degli ultimi è scritta nella Costituzione, poveri, migranti e carcerati. Questa bella e lunga intervista di Liana Milella, che a Repubblica si occupa storicamente di tutti i temi che riguardano la giustizia, la trovate alle pagine 2 e 3 della Repubblica, e vi leggo alcune appunto risposte. Un giudizio troppo lungo diventa un anticipo di pena anche se l'imputato non è in carcere. La durata ragionevole è un principio di civiltà giuridica. Quindi capite bene che sono tutti temi che si intrecciano con lo scontro in corso sulla riforma del processo penale e in particolare sullo stop alla prescrizione, che è entrato in vigore il 1 gennaio di quest'anno. La decisione sulla spazza corrotti ha esplicitato il principio fondamentale che vieta di applicare le leggi più severe a fatti commessi prima della loro entrata in vigore, la cosiddetta non retroattività di una norma. Il carcere deve rispecchiare il volto costituzionale della pena, e la carta appunto è la Costituzione, parla di pena che deve dare al condannato una seconda chance. E qui torniamo sul grande tema della funzione che dovrebbe avere il carcere anche di rieducazione, quindi per esempio anche preparare a un lavoro quando si esce dal carcere. Un esempio positivo, la storia a lieto fine, grazie al contributo di molti, di una ragazza la cui rinascita dopo il carcere rischiava di essere interrotta dall'espulsione, quindi racconta anche appunto singoli casi. Con la Repubblica, come ogni domenica in edicola l'Espresso, sulla copertina il richiamo all'inchiesta Il fascista alla porta, una rete suprematista internazionale presente anche in Italia che usa i canali digitali per colpire ebrei e immigrati con aggressioni, minacce e svastiche sulle case. E in particolare la foto è quella di questa scritta Jude, che in tedesco significa ebreo, sotto la stella a 6 punte, che era il simbolo, anche se gialla, cucito sopra, prima sopra tutte le giacche degli ebrei di Germania, quando ancora non venivano deportati, per identificarli appunto come ebrei. Il secolo XIX, ve lo segnalo subito perché oggi la stampa, come ieri, non è in edicola. La stampa, i giornalisti della stampa hanno proclamato 3 giorni di sciopero, in particolare per il piano industriale e giornalistico presentato nei giorni scorsi. Il secolo XIX però, quotidiano legato alla stampa, è in edicola. L'apertura è sul coronavirus: primo morto nell'Unione Europea, sapete, un turista di 80 anni morto in Francia. L'Italia vuole rimpatriare i turisti bloccati sulla nave. È interessante questo approfondimento sul coronavirus perché, tra l'altro, essendo Genova città di mare, c'è questo approfondimento sui trasporti, perché sapete che si è parlato molto giustamente del bollettino, i morti, i contagiati, anche i guariti. Ma si è parlato forse un po' meno delle conseguenze, per esempio, sui trasporti. E qui allarme nei porti: con l'industria cinese ferma, arrivano navi semi vuote. E trovate le pagine 2 e 3 del secolo XIX dedicato a queste conseguenze dell'emergenza, dell'epidemia da coronavirus. Matteo Dell'Antico, per esempio, spiega: produzione a rischio entro fine mese, dalla Cina in arrivo navi semivuote, 20% il traffico con la Cina sul totale delle merci movimentate nel porto di Genova, 45% lo scambio merci con Pechino realizzato nell'altro porto ligure, La Spezia, 24% i giorni medi che una porta container impiega dalla Cina per arrivare in Liguria, 31% il valore in miliardi di euro della merce esportata dalla Cina in Italia nel 2018. Il Messaggero: Conte 2 punti avanti anche senza Renzi, e anche qui pagine 2 e 3 e ancora altri approfondimenti e commenti. Vedremo, perché io stiamo aspettando, non so, a volte penso magari c'è un film dell'orrore o un film che non si vuole vedere nel suo svolgimento, diteci come finisce. Ma non è possibile, purtroppo. Vedremo nei giorni prossimi come evolve questa, ripeto, strisciante crisi di governo. Interessante, dal Messaggero, richiamato in prima pagina, un approfondimento sulla emergenza natalità. Sapete che nella settimana scorsa l'Istat ha certificato non soltanto l'assenza di crescita del PIL nel nostro paese, ma anche il più grave calo demografico dal dopoguerra. E quindi sarebbe pronto, secondo il Messaggero, il cosiddetto Family Act, ma mancano i fondi. Assegno unico per l'aiuto ai nuclei e più congedi. Sul tavolo 16 miliardi, ma non basteranno per tutto. L'Avvenire, meritoriamente, titola sulla tragedia in Siria. Tra l'altro sapete che è un documentario che è nelle sale anche italiane, era anche candidato all'Oscar, e racconta questa tragedia che per i civili, soprattutto donne, bambini e anziani in corso in Siria, e in particolare nella zona di Idlib, dove tra l'altro in questo periodo fa molto freddo. È morta di freddo una bambina 2 giorni fa. Il padre ha cercato disperatamente a piedi di portarla all'ospedale più vicino, ma in quell'ospedale la bambina è arrivata morta. E da qui Avvenire: tragedia infinita. In Siria si muore ancora, 3 milioni intrappolati, 80.000 dormono al freddo. Il cardinale Bassetti a Bari in ascolto del grido dei popoli del Mediterraneo. Pensate, appunto, tutti questi scontri che sono ancora in corso a Idlib, e naturalmente i più vulnerabili sono i bambini. Poi in prima pagina anche le notizie dalla politica: Conte, Renzi, ora basta, Salvini torna anti-Europa. Questo è un po' l'altro, sul fronte dell'opposizione, questo è il ping pong ennesimo tra Salvini e il numero 2 della Lega, Giorgetti, che aveva dichiarato in un'intervista con parole molto chiare: Non ha senso ricominciare a parlare di uscita dell'Italia dall'Europa. Poi Salvini aveva detto: l'Europa deve cambiare, allora volete l'Italexit? Sì, no, insomma, queste sono le ultime prese di posizione sulla questione Europa sì, Europa no, Euro sì, Euro no. Il Giorno ha una doppia apertura da una parte, e anche il Sole 24 Ore dedica molto spazio a questo naturalmente, le nuove regole per gli sconti per chi rifà le facciate, non solo facciate, sconti per la casa, pubblicati i requisiti e regole per ottenere il maxi bonus, e la fotonotizia però dedicata a quell'odissea della nave, la nave da crociera bloccata in Giappone, l'odissea dei 35 italiani, ci sono anche 35 italiani a bordo sugli oltre 3.000 tra passeggeri ed equipaggio, così resiste l'equipaggio. Il comandante Campano, che è appunto Gennaro Arma, di questa nave da crociera che si chiama Diamond, infonde speranza, l'ipotesi di un volo per rimpatriarli. Il Giornale, Conte mira al Colle, delirio di onnipotenza, questa è l'interpretazione del Giornale, e l'editoriale del direttore del Giornale Alessandro Sallusti, appunto dedicato a quello che ha detto Salvini ieri, Salvini, l'Europa e il gioco di spararle grosse. Libero, previsioni nere sul coronavirus, scienziati menagramo, in 2 su 3 ci ammaleremo, ricercatori e luminari mondiali senza controlli, c'è il rischio pandemia, isolare la Cina non è un errore, primo morto in Europa e paura in Africa. Il morbo insegna, la natura va domata, non subita. Personalmente credo che la natura non sia possibile domare la natura. Ma vabbè, questa invece è l'idea di Antonio Socci nel suo lungo articolo che inizia in prima pagina e poi trovate a pagina 5, inizia così: la vicenda del coronavirus ci dà diverse lezioni, la prima dovrebbe impararla il regime comunista cinese. E Renato Farina invece, che dà conto appunto di tutti questi opinioni, allarmi e dati scientifici, da Ginevra, dove c'è stato un vertice organizzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e molti altri medici, scienziati e ricercatori che hanno espresso i loro pareri sull'epidemia di coronavirus negli ultimi giorni. In copertina anche un articolo che poi trovate a pagina 3 del vice direttore Pietro Senaldi, Santori e Zingaretti coppia di fatto, la sardina Mattia Santori naturalmente si schiera col PD e picchia su Renzi. Ah, poi anche Vittorio Feltri si esercita sulle uscite di Salvini sull'Europa, il titolo dell'editoriale è «L'Europa non funziona, è meglio fare come Boris Johnson, ha ragione la Lega». E noi ci lasciamo un attimo e ci ritroviamo subito dopo la pausa, sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e bentornati a questa lettura delle prime pagine dei giornali, ci mancava ancora qualche prima pagina. La verità, vi leggo il titolo e così mi piacerebbe fare un quiz. Che cosa secondo voi vuol dire questo titolo? Allora, il titolo è «Il PD vuole toglierci figli a 3 anni». Governo all'attacco della famiglia. Perché? Perché ci sarebbe una proposta per rendere l'asilo obbligatorio, cioè dai 3 anni in poi, e in questo scimmiotterebbero Macron. Questo giornale, La Verità, dice di essere grande difensore della famiglia, spesso interviene anche quel signore che ha organizzato il forum della famiglia e che stigmatizza una misura che imiterebbe la Francia, dove sapete che non c'è la crisi demografica e la famiglia non è in crisi. Quindi ditemi voi, dietro motivazioni pseudo-formative c'è l'obiettivo di colpire le paritarie e tenersi buoni i sindacati. È un giornale di opinione sicuramente, perché il titolo a tutta pagina è sicuramente un'opinione. C'è naturalmente anche la questione politica. Franceschini zitto zitto, ha iniziato la caccia per riprendere i renziani. Franceschini, ministro della cultura e anche appunto uomo di spicco all'interno del PD. E poi l'aggiornamento sul coronavirus. Il Fatto Quotidiano invece è l'unico quotidiano a aprile sulla manifestazione che c'è stata ieri a Roma del Movimento 5 Stelle. C'è vita nei 5 Stelle, piazza piena contro i vitalizi e non solo. Il Manifesto invece è l'unico quotidiano ad aprire sulla vicenda di Patrick Zaki, lo studente egiziano che però in questo periodo stava studiando a Bologna. Che ieri c'è stata l'udienza per convalidare gli arresti e così è stato, un'udienza lampo. Patrick Zaki denuncia torture e abusi ma resta in cella. Il giudice del tribunale di Mansura riceve una telefonata, cambia idea, respinto l'appello dei legali. Nelle mani del faraone, naturalmente nel senso di attuale presidente dell'Egitto che è al-Sisi. Ma torniamo alle pagine andiamo alle pagine interne dei giornali e torniamo sul Sole 24 Ore. Vi dicevo l'intervista al ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano, pagina 3. Così toglieremo il freno alla spesa per rilanciare il Sud. Invece il bellissimo approfondimento di Alberto Magnani sull'Africa, ricordiamolo sempre, appunto Africa, si fa presto a dire Africa, in realtà sono 54 paesi, qui in particolare c'è un focus sulle economie dei paesi che crescono di più. I 10 mercati di consumo più in crescita: Kenya, Costa d'Avorio, Ghana, Senegal, Etiopia, Camerun, Ruanda, Egitto, Uganda e Tanzania. E poi i settori più in crescita nelle diverse economie. Trovate tutto a pagina 8 del Sole 24 Ore di oggi. E la pagina Sport e Business, come ogni domenica sul Sole 24 Ore, questa settimana dedicata al rugby di Giacomo Bagnasco, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, un grande esperto di rugby, di tante altre cose, ma in particolare di rugby, che è anche naturalmente la sua passione, una delle sue passioni. Rugby italiano più forte, ma non sul campo. Dopo l'acquisto del 27% della Premiership ed essere addirittura di arrivo per il torneo Pro 14, il fondo CVC punta anche al torneo tra le nazionali più forti in Europa, che si concluderà il 14 marzo, 60 milioni per la federazione italiana. La sezione Lifestyle, in edicola come ogni domenica con il Sole 24 Ore, e Sara Magro in copertina ci racconta 10 ottime ragioni per regalarci Venezia. Sapete che Venezia, dopo l'alluvione, ha avuto una crisi legata alle disdette negli alberghi dei turisti, che ancora magari pensano che la qualta sia un problema, e in realtà è tornato tutto a posto, ci racconta Sara Magro, il momento ideale per un tour gourmet tra musei, gallerie e botteghe artigiane e naturalmente il carnevale. La pagina 2 invece di Lifestyle, due approfondimenti di Stefano Salis, è andato a visitare il museo Vitra di Basilea. Vitra, questa azienda famosa per i mobili e complementi d'arredo e per il suo legame anche proprio con la storia del design. Una ricca e intelligente esposizione mette in scena un secolo di interior design grazie ai visionari che hanno influenzato i nostri gusti. Siamo quello che abitiamo, così l'arredo ha fatto storia. Dal Corriere della Sera, un approfondimento su Zaki, non è in prima pagina ma nelle pagine interne. Francesco Battistini, inviato a Mansura: Zaki non torna libero, situazione brutta, siamo 35 in una cella, mi tenete la mano? Udienza negativa, per l'Italia un sorriso, forza Bologna. Sapete che gli studenti, i suoi compagni di università a Bologna stanno cercando di fare tutto quello che si può fare dall'Italia e appunto come studenti per tenere, se non altro, accesa l'attenzione su questo caso. C'è una breve intervista sempre di Francesco Battistini alla sorella di Patrick Zaki, Maris George Zaki, che dice: ci speravamo, ora è più dura. Molto interessante l'approfondimento di Alessio Ribaudo da Parma. FAI sfida l'abbandono dei monti e ci racconta questo progetto Alpe del FAI per aiutare i comuni sopra i 600 metri, le idee e le località da salvare, tra le quali per esempio Ulassai in Sardegna, Castelnuovo nei Monti in Emilia Romagna, Valle Castellana in Abruzzo e Troina in Sicilia. Un altro approfondimento, io credo che soprattutto magari al sabato e la domenica, quando la maggior parte di noi, non tutti perché naturalmente molte persone lavorano anche di sabato e domenica, però la maggior parte di noi ha magari più tempo per leggere, e questo approfondimento della Repubblica ci riporta sulla questione di come gestire l'immigrazione. Migranti, il ritorno del mondo di mezzo. Il decreto legge sicurezza arricchisce le maxi COP. Alessandra Ziniti parte da un'indagine Open Policy Action Aid. Il 73% degli stranieri vive in centri da 100 o più posti. E ci sono anche tutti i numeri con questa decisione di chiudere le strutture più piccole, mini strutture addio, 89.185 i migranti nei centri di accoglienza al 31 gennaio, la fonte è il Viminale, 73% sono nei CAS, questi appunto, quindi 73% di circa 90.000 sono circa 65.000 persone ospitati nei CAS, che sta per centri di accoglienza straordinaria, e altri numeri che ci fanno capire come appunto parlando di immigrazione dovremmo sempre tenere presente questi numeri. Molto interessante anche un altro racconto, questo ce lo fa Pietro Veronese a pagina 17 della Repubblica. Dogon, popolo delle stelle che rischia di sparire per mano degli islamisti. Sono i mitici abitanti della falesia di Bandiagara nel Mali, a proposito di nuovo di Africa, decimati dai jihadisti. 31 trucidati solo nell'ultimo massacro, una pulizia etnica che può essere fatale. Sempre invece dall'emergenza sulle infrastrutture, dal secolo XIX racconta come riapre il viadotto sulla A6, così il turismo nel ponente ligure cerca la stagione del rilancio. Albergatori e operatori turistici più ottimisti, salva la Milano-Sanremo, la gara ciclistica naturalmente, con tutto il suo indotto, ma i sindaci lanciano l'allarme: spostarsi sulla A10 continua a essere molto complicato. Ancora tanti altri approfondimenti, vi dicevo anche il tema dei porti, e interessante il colloquio con Pasqualino Monti, presidente del porto di Palermo, che dice: opere l'Italia riparta dal modello Genova, un commissario scelga quelle da realizzare. Abbiamo notato tutti nei giorni scorsi come l'inaugurazione di una parte importante del nuovo ponte di Genova al posto del ponte Morandi, crollato, non dimentichiamolo mai, il 14 agosto del 2018, facendo 43 vittime. Però la ricostruzione, con sicuramente c'è stata anche il fatto che il progetto è stato fatto in tempi brevi da Renzo Piano, che l'ha donato alla città, però intanto la ricostruzione è partita e sta procedendo secondo i tempi previsti, quindi proprio un modello Genova. Oggi più che mai, spiega Pasqualino Monti, dobbiamo mettere mano a un piano industriale del sistema paese in modo deciso. Le associazioni dello shipping, cioè tutte quelle che si occupano appunto di trasporti via mare, indicano i 25-30 interventi prioritari, valgono almeno il 2% del nostro PIL. Vi dicevo l'approfondimento sul Family Act, e quindi per contrastare la denatalità. E appunto vi dicevo che c'è un confronto, visto che si può fare il confronto con i paesi che invece sono riusciti a contrastare il calo comunque demografico fisiologico in paesi maturi come quelli occidentali, maturi dal punto di vista, potremmo dire, sociologico, quindi dove appunto si ha la natalità decresce ma aumenta l'aspettativa di vita, quindi aumenta la popolazione anziana, e quindi c'è questo schema che fa vedere le differenze tra Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, e poi questo approfondimento, assegno unico, pagina 7 del Messaggero, agevolazioni e congedi, pronto il provvedimento del governo che riordina le forme di aiuto ai nuclei familiari. La riforma parte con una dote di 16 miliardi che però non basterà per tutte le prestazioni. Le due pagine centrali del giornale, come ogni domenica, dedicate agli animali, molto interessanti i due approfondimenti di oggi. Da una parte consigli molto pratici: in aereo, nave o treno, tutte le istruzioni per viaggi a 6 zampe, 2 degli umani naturalmente, 4 dei 4 zampe, dal peso che consente di volare in cabina ai documenti necessari, occhio alle tariffe. E poi invece una storia curiosa che viene dal New Mexico, questo stato americano, è la storia di Sally, una cagnetta vagabonda, ogni sera mangia al fast food. La cagnolina è diventata una storia del social network TikTok, che è quello più popolare adesso tra i più giovani, soprattutto gli under 18. Il gestore del locale sostiene i poveri e i loro animali. Ci lasciamo un attimo per una pausa sul traffico e poi ci ritroviamo con le ultime segnalazioni dalle pagine interne dei quotidiani e i supplementi della domenica. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie a tutti gli ascoltatori, innanzitutto per l'ascolto e poi anche a chi sta mandando messaggi al 349-238-6666, sms o whatsapp, e grazie all'ascoltatore che mi dice non si dice Troina ma Troina, ok, è quella località della Sicilia, località montana che è tra quelle che il FAI vorrebbe salvare, nel senso salvare soprattutto dallo spopolamento che purtroppo interessa molte delle località sopra i 600 metri di quota. Invece all'ascoltatore che dice mi saprebbe indicare una società con una percentuale maggioritaria di persone di fede islamica che viva in pace con se stessa o con i vicini, no, al momento non me ne viene in mente alcuna. E tra l'altro, a proposito di paesi dove la fede principale è quella musulmana, a pagina 19 del giornale un approfondimento sull'Algeria: la vera primavera araba è cominciata un anno fa. Dopo 12 mesi di manifestazioni, l'onda del neonato Iraq ha dato una spinta al cambiamento del paese. Il governo ora promette una nuova costituzione e maggiore libertà, ma gli algerini ancora non si fidano. Poi, sempre dal giornale, una lunga recensione di Eleonora Barbieri a questo bel libro che si intitola Lo scheletro nell'armadio, è appena uscito da Saggiatore, lo ha scritto Brian Switek, ed è la storia appunto degli scheletri. Ecco gli scheletri nascosti nella nostra lunga storia, in un saggio Segreti e curiosità sulle ossa, la struttura fondamentale, ma spesso ignorata, dell'esistenza. E passiamo ai supplementi domenicali e come sempre iniziamo dalla domenica del Sole 24 Ore e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, e nel frattempo grazie all'ascoltatore che dice paese islamico in pace e tollerante, l'Oman. E poi invece l'ascoltatore di prima che mi dice voi altri criticate Israele, stato circondato da questa melma. Un buon inizio di dialogo, comunque qui entreremmo in discussioni che richiedono dati, numeri, opinioni, non si possono certo fare via sms o messaggio whatsapp. Dicevo, il breviario di Gianfranco Ravasi che si intitola Pazienza, e la citazione è questa: la pazienza è potenza, con il tempo e con la pazienza ogni foglia di gelso diventa seta. E scrive Ravasi, non solo per produrre il filo di seta dal gelso e dal baco, ma anche per creare quel piccolo capolavoro che è il bambino, ci vogliono mesi. I ritmi naturali hanno come legge proprio la pazienza, è ciò che ricorda l'antica sapienza di Confucio che abbiamo citato. È quello che si sperimentava quando si viveva in armonia con le stagioni nella civiltà rurale. È interessante notare che questo vocabolo ha alla base la radice latina patior, cioè il patire. Si cerca la vita? Sì, perché la vita comprende anche i sussulti, le sofferenze, le ferite che si rimarginano solo con lo scorrere del tempo. La pazienza è quindi non solo creazione, ma anche ricreazione della persona e suppone coraggio e sopportazione. Il frutto della felicità spesso sboccia dopo una lunga e lenta crescita faticosa. In un'epoca come la nostra, che vola all'insegna della frenesia e del tutto subito, la lezione della pazienza è un vaccino importante per curare la delusione, le intolleranze e le frustrazioni. Ma la copertina vera e propria, abbiamo visto prima, è un libro dedicato alle ossa, agli scheletri. La copertina del domenicale, Vittorio Lingiardi, invece la dedica al cuore. Cuore tenero o matto dalle gare? Motore della vita, alla scoperta del nostro muscolo involontario, centrale per l'esistenza umana, ma anche pulsante di rimandi simbolici, culturali e artistici. E poi invece, a proposito di belle lunghe recensioni, Carlo Ossola ci racconta l'ultimo libro di Claudio Magris, che è tutto dedicato alle polene, cioè gli occhi del mare, le sirene che venivano scolpite per le grandi barche a vela, le grandi navi a vela. Polene, occhi del mare, ha pubblicato La nave di Teseo, un viaggio tra libri e musei alla ricerca dei significati delle statue navali modellate sulle prue, da talismani apotropaici a donne del desiderio a dee protettrici. Siccome ricorre l'anniversario della morte di Adriano Olivetti, una pagina intera dedicata a questo grandissimo, ineguagliato protagonista dell'imprenditoria italiana, il primo articolo di Paolo Bricco, che Adriano Olivetti ha dedicato più di un libro, 60 anni fa moriva il grande imprenditore innovatore che voglia gli intellettuali al suo fianco e portò in fabbrica servizi sociali e culturali, la caduta nella politica e la minorità dell'elettronica, il peso del capitale umano. E poi Giuseppe Lupo, grande storico dell'industria italiana, che un secondo articolo sempre in questa pagina, l'industria come progetto morale. E poi il segretario generale della Fondazione Adriano Olivetti ed editore di Edizioni di Comunità, che è anche nipote di Adriano Olivetti, parliamo di Beniamino De Liguori Carino, che regala al Sole 24 Ore questo intervento: l'eredità olivettiana, a nessuno sia negato il diritto alla libertà. E poi invece una recensione di un altro libro ancora di David Clay Large, pubblicato da Edit, che si intitola L'Europa alle Terme, è di Maria Luisa Colledani, sempre sul Domenicale, alla scoperta dell'acqua calda. Civiltà delle Terme, e lo scrittore appunto ricostruisce due secoli di storia delle stazioni di lingua tedesca, da Baden-Baden, capitale estiva d'Europa nell'Ottocento, a Karlsbad con i loro hotel e i bagni in stile Art Nouveau. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, affida la copertina a un artista. Questa settimana è Beverly Pepper. Le prime pagine, sapete che la lettura da qualche tempo ha appunto questi lunghi approfondimenti. Nelle prime 5-6 pagine, questa settimana sono 5, e l'argomento di questa settimana è la musica classica che non fa più paura. Che cosa spinge il pubblico a riempire le sale da concerto o ad ascoltare online Bach? Che cosa porta gli interpreti a confrontarsi con opere scritte secoli fa e gli autori di oggi a creare nuove partiture? Mentre il mondo celebra i 250 anni dalla nascita di Beethoven, la lettura, con il compositore Nicola Campogrande, ne ha discusso con 5 musicisti: Roberto Abbado, Mario Brunello, Francesca Dego, David Del Puerto e Alexander Romanowski. Si parte da una tesi radicale: la musica classica non è mai servita a nulla, ma è necessaria, e si passa da un'osservazione che parla di noi, la classica è un potente veicolo per le emozioni, e si arriva alla tecnologia, che ci sommerge di stimoli ma non ci toglie speranza, perché reimpariamo ad apprezzare la qualità rispetto alla quantità. Invece le ultime due pagine della lettura partono da questo Festival dei Boreali, organizzato dalla casa editrice Iperborea, che da sempre pubblica autori del nord Europa, dell'estremo nord Europa, e c'è anche un racconto di Fredrik Sjöberg, che tra l'altro è in libreria con questo libro Mamma è matta, papà è ubriaco, pubblicato appunto da Iperborea, che dà appunto alla lettura anche un racconto. Robinson invece è dedicato a questa iniziativa di Repubblica, Robinson, il supplemento culturale settimanale della Repubblica, che il torneo abbia inizio. Repubblica si è inventata questa sfida tra scrittori: Primo Levi contro Landolfi, Camilleri contro Sciascia, tanti altri duelli. Ma questa idea del duello, comunque, tant'è, inizia appunto su Robinson e continuerà nelle prossime settimane. Vi segnalo sempre da Robinson un racconto di Stephen King, Le mie storie per ragazzi, silenzio parla il re del brivido. Il grande scrittore, autore dei cult adolescenziali It e Stand By Me, ci spiega perché ha affidato il seguito di un suo libro per giovanissimi all'amico Richard Cizmar e perché queste avventure si ispirano al mito del vaso di Pandora. E poi una bellissima intervista di questa serie Straparlando di Antonio Gnoli, corredata sempre dai ritratti di Riccardo Mannelli, lo trovate nelle ultime pagine di Robinson. Questa settimana l'intervistato è Gian Arturo Ferrari, grande manager di case editrici, ma che ha anche appena pubblicato per Feltrinelli Ragazzo Italiano, la storia sua in cui si riflette quella dell'intero paese. Gian Arturo Ferrari ha 75 anni, anche se mi sembra che non li dimostri, e appunto il titolo dell'intervista è La mia giovinezza vale un romanzo. Avevo messo da parte tante altre cose, ma non ho più tempo. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, un grazie a tutti voi e ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.